non stare violando le leggi antitrust. Sono sicura che The Circle sarà felice di collaborare. Abbiamo piena fiducia che le affermazioni della senatrice Williamson verranno screditate. Ti starai chiedendo il motivo dello schermo nuovo? Ciao, sono Gina. Io sono Matt. Ciao. Dan dice che è un buon momento per il setup dei tuoi social. Hai tempo? Certo. Ottimo. La settimana scorsa sarai stata troppo impegnata per aprire il tuo social account dell'azienda e non credo che tu abbia aggiornato il tuo vecchio profilo. Scusate, che ho avuto davvero troppo da fare. Oh. Oh. No, sono contenta, è solo che non ho avuto tempo di fare cose extracurricolari. Wow. È interessante che tu la metta in questo modo. Noi consideriamo il tuo profilo e le sue attività come parte integrante della tua partecipazione qui. È così che i tuoi colleghi, anche quelli dall'altra parte del campus, sapranno chi sei. La comunicazione di sicuro non è extracurricolare, giusto? Giusto, ma certo. Ti consideriamo una persona da conoscere dal potenziale illimitato e un membro fondamentale della comunità. Ma sei un grande enigma. Davvero? È da anni che una persona così misteriosa non lavora qui. Piaci molto a tutti quanti. Il tuo lavoro è esemplare, hai ottimi punteggi per essere la prima settimana. Sei soddisfatta della tua performance? Io credo di poter fare di meglio. Bene, ma non tutto gira intorno al lavoro, ok? Conta molto anche la comunità. Ma certo. È tutto collegato. This place is a prison and these people aren't your friends. Ain't no postal service when it's always Sunday in your head. Letters unsent, burning that candle at both ends. In the break room, ready to break. Halfway to broke, halfway to broken down. This job makes you nauseous, you try to hold it down. And they will take every opportunity to comment on your luck. Cause in this economy, you gotta be like bottoms up. Even when you know it's poison, yo. You feeling well? Like a body that's so hungry it begins to eat itself. Bootstrapped so tight you can't admit to needing help. On the rail, feel like hell, you want it to all stop. Side-ash the manager, making small talk. Try to stay focused, you casually glance at your watch and see that you are halfway to being halfway to being halfway done with half of your day. Punch that clock till it bleeds. It feels like they're trying to break us. They tell you to follow your dreams. When your alarm is going off, wake up. Punch that clock till it bleeds. It feels like they're trying to break us. They tell you to follow your dreams. When your alarm is going off, wake up. All of my life I've been lied to. Just found out my boss makes 500 times what I do. And still wants to cut my hours back to 39 and 3/4. Cause 40 gets you a health plan. And I got a feeling I'ma need it. Losing feeling in my knees and my lower back. And I'm going back, trapped like a lower class clown. Hold the rat down till we kill each other. But try to keep us hungry so we never organize. When the unbetter just make it through the day. Make it through the week, make it through the month. Make a millionaire another couple bucks. What? And like that, the coffee buzz is gone. It's only 9:30, step by step with the other pawns. One square at a time, somewhere between the walking dead and the buried alive. You can't steal what's already been stolen. You cannot kill what is already dead. So if we gotta be zombies, let's snatch the CEO and see if there is a brain in his head. Until then, punch that clock till it bleeds. It feels like they're trying to break us. They tell you to follow your dreams, but your alarm is going off. Wake up. Punch that clock till it bleeds. It feels like they're trying to break us. They tell you to follow your dreams when your alarm is going off. E bentornati e bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Questa sera sono di nuovo in regia tutto solo, soletto, e ormai non ero più abituato, mi sto riabituando. Tutti i miei soci mi hanno abbandonato, ma presto torneranno, credo, spero. Ecco, non, anche perché non mi hanno detto che non venivano più. E quindi ho fiducia che questa cosa prima o poi riaccada e questa regia sia di nuovo piena di gente che mi tiene compagnia. Ma nonostante tutto io vado avanti anche da solo. Oggi abbiamo aperto la puntata perché io con 2 o 3 anni di ritardo, come è mio solito, ho visto in una sera in cui non avevo molte cose da fare in verità, un bruttissimo film di cui volevo parlare, anche se probabilmente ne hanno già parlato male in tanti, io però non l'avevo mai visto e sono rimasto veramente basito da quanto era brutto questo film. E si tratta di The Circle, un film di un regista che in realtà, io... Non è che lo conoscevo benissimo, però ho visto un altro suo film, che era quello praticamente un intervistatore del Rolling Stones che andava a seguire la vita di David Foster Wallace in un suo, quello che è stato il suo ultimo tour, e poi si è ammazzato, si è impiccato, e in giro a presentare insomma il suo libro Infinite Jest. E quel film in realtà mi era abbastanza piaciuto. E poi ho visto invece questo, che è tratto da un romanzo di Dave Eggers, e il film invece è di James Ponsold. E sostanzialmente ho avuto modo di apprezzare la sua sostanzialmente inutilità completa. Cioè, capita a volte, tu guardi una roba e dici: Madonna, ho buttato via 2 ore di vita così. Effettivamente sì. Meno male che tanto ero lì per collassare dal sonno, quindi alla fine un po' dormicchiato, un po' l'ho visto, alla fine non ho proprio buttato via completamente il mio tempo. In realtà il libro pare che non fosse neanche tanto male. La cosa che più mi ha basito è quanto ho capito che pure l'autore ha partecipato alla scrittura della trama, alla riduzione cinematografica del film, eppure nonostante questo fa schifo, cioè perché proprio io guardando il libro non l'avevo letto, però poi sono andato a ricercarmi su Wikipedia la trama e effettivamente non c'entra, cioè sì, il film più o meno la trama è quella, però cioè, il finale è completamente tirato via, praticamente le cose interessanti della trama sembrano tagliate e il film comunque è veramente di una superficialità notevole, non si capisce neanche bene cioè se sia un film critico o no verso il mondo dei social network, perché il finale è assolutamente aperto alle interpretazioni. La cosa interessante di questo film è che addirittura avevano scelto una mega protagonista, meno mega, insomma a me non è che mi interessi tanto, però tutti la conoscevano meno me, insomma l'altra persona che era con me sapeva che Emma Watson era la tipa di Harry Potter e io invece no, pazienza, però insomma hanno speso anche tanti soldi per fare questo film, quindi io ci tenevo a parlarne un po' male. Però finora ci hai solo detto che è brutto, non ci hai ancora detto perché. Ebbene, perché? Il film parla di questa signorina May Holland che sostanzialmente finisce a lavorare per una roba che è un mischione tra Facebook e Google, sostanzialmente, cioè questo grosso social network in questo campus pieno di gente IAIA tutta contenta che lavora felice e sta sempre là dentro. E abbiamo aperto appunto con un pezzo del film in cui gli veniva spiegato dai colleghi che comunque l'essere social è parte integrante del lavoro, cioè non è che tu fai solo il tuo lavoro di rispondere all'hanno pesa tipo non telefonista ma faceva il customer care, ecco, non è solo quello ma è anche tutte le robe successive, cioè vivere la vita del campus, quindi andare alle feste, rispondere, essere social e tutte queste cose qui. Fino a qua sembrava sostanzialmente un film che dice: vedi, staranno enfatizzando questi aspetti negativi del social network per arrivare poi a tirarne delle conseguenze. Effettivamente queste conseguenze poi vengono tirate nel film. Quello che accade sostanzialmente è che lei, che sembrava un po' restia all'inizio, però anche proprio per questo abbastanza sveglia, nel senso che non era completamente rincoglionita e banale nel suo pensiero, anche se in realtà non escono perle di saggezza dalla sua bocca mai praticamente. Ebbene, però viene poi coinvolta sostanzialmente nel lancio di una di un nuovo oggetto, che è questa microcamera che costa pochissimi dollari e quindi viene sparpagliata un po' ovunque, e come ci tiene a ribadire l'altro grande protagonista del film, che era uno dei proprietari dell'azienda, uno di quelli cattivi, insomma, che però cattivo non è perché sembra sempre un po' buono, un po' simpatico, che viene fatto interpretare da Tom Hanks. E comunque, come viene ribadito, insomma, queste telecamere vengono messe in giro senza grossi permessi, però sono piccolissime, costano pochissimo, uno le appiccica, non si capisce come, per quale magia, riescano a stare accese a lungo. Nel film, essendo fantascienza, si è postulato probabilmente all'invenzione di una batteria che dura un casino, mandando dei video a qualità altissima full HD con una connessione che non si sa dove cazzo prende, perché fanno vedere, inizialmente lo presentano sulle spiagge, quindi tante spiagge con questo coso attaccato, quindi evidentemente nel mondo fantascientifico c'è un 5G che non consuma un cazzo, con delle batterie infinite, degli oggetti che riescono a stare sempre attaccati e produrre immagini in altissima definizione sempre. Però vabbè, ci sta, perché fermarsi ci sta, nel senso che magari con la rivoluzione del grafene, capito, si creeranno questi oggetti magici. Fatto sta che sostanzialmente questo programma deve vincere comunque un pochino di resistenza della società, e uno dice, vabbè, non è che io sempre voglia di stare con qualcuno che mi riprende, manco so che hanno messo la telecamera e così. Allora si usa un escamotage tipico dei reality, cioè sostanzialmente un piagnisteo, perché la signora Mae sostanzialmente viene presa da un raptus notturno di follia, decide, lei è un'appassionata di kayak, decide di andare a rubare un kayak e poi uscire in mare la notte, così un po' depressa, un po' sfavata, un po' non si sa, così questo gesto un po' birichino. Fatto sta che chiaramente uscire in mare la notte non è una grande idea, e lei finisce in acqua e viene salvata da un elicottero, e gli dico, ma chi vi ha chiamato? Ah, nessuno vi ha chiamato, ti hanno trovata grazie a The Circle, sostanzialmente, a questo servizio che loro chiamano in realtà True You, mi sembra di ricordare che sia proprio il nome del social network, mi sembra, poi non sono sicurissimo. Comunque la ritrovano, e quindi lei sostanzialmente finisce a parlare con il suo capo, che ha questa idea geniale di dire, ok, adesso veramente la presenta nelle sue conferenze del venerdì, quando arringava le folle dei suoi seguaci e dipendenti, sostanzialmente. E la presenta in questa veste di birichina pentita, che davanti a tutti fa questa opera di pentimento, proprio nella quale dice, sì, effettivamente io, se non mi guardano sempre, mi comporto male, solo quando la gente mi guarda allora ho un buon comportamento, e quindi da d'ora in poi, quasi per espiare, sostanzialmente mi convertirò alla trasparenza totale, cioè indosso questa telecamera sempre, meno quando vado in bagno e quando dormo, perché è poco interessante, ma per il resto sempre. E nello stesso tempo c'è questa storia parallela dei suoi genitori, di cui il babbo è malato di sclerosi multipla, e sostanzialmente lei entra in questo programma anche perché The Circle gli offre un'assistenza sanitaria gratuita in un'America dove comunque questa cosa non è banale, non che da noi sia meglio, però loro proprio la mutua se la scordano, e quindi sostanzialmente ci vogliono i soldi. Quindi anche i genitori, in cambio di portare sempre queste telecamerine 24 ore su 24, e grazie a questo lei diventa molto popolare, un sacco di follower, diventa famosa, intraprende la carriera all'interno di The Circle, entra in conflitto con l'amica che l'aveva portata dentro, che è una che praticamente per reggere i ritmi ci rimane sotto con l'anfetamine, dopo un po' sbrocca, questa gli gli fa le scarpe, sostanzialmente diventa la preferita, se non che a un certo punto conosce questo personaggio misterioso a una festa, tale Calden. Calden si viene a scoprire poi che in realtà è il terzo socio dei fondatori, quello tecnico, quello che si era inventato tutto, che però sostanzialmente si è preso un attimo di pausa perché lui non è contento di dove stanno andando le cose, dice c'è qualcosa che non funziona e che sarà mai essere, boh, strano. E la cosa procede ancora. Nel senso che a un certo punto viene lanciato un nuovo servizio, questo servizio chiamato Soul Search. Soul Search è sostanzialmente un programma che aiuta a trovare le persone basandosi sostanzialmente sulle infamate degli altri. Cioè l'idea è quella: io sto cercando un ricercato, ok, lo butto su Soul Search e saranno gli stessi componenti del social network che prendono questa sfida e poi una specie di chi l'ha visto sui social, sostanzialmente, no? E questa roba viene fatta anche per ritrovare una specie di ex fidanzato della signorina May Holland, e questo ex fidanzato è sostanzialmente una sorta di troglodita che non gli piace il social network, l'ha detto proprio, e quindi vive un po' nei boschi, non è iperconnesso e quindi sostanzialmente è una persona bruttissima. E comunque lo vanno a ricercare e fatto sta che lui si spaventa perché gli arrivano a trovarlo nella sua piccola casetta nel bosco dei personaggi strani in gita con la bici eccetera, che lo vanno a riprendere, lo inseguono, quindi scappa in furgone, c'è questo inseguimento. Nel film in realtà c'è un'edulcorazione, penso dovuta sostanzialmente al fatto che gli avranno detto fatelo sembrare un po' meno peggio di come era il libro, cioè di meno drammatico. E quindi mentre nel libro c'è scritto che lui, inseguito da questa gente, sceglie deliberatamente di gettarsi giù da un ponte e quindi schiantarsi in diretta, in realtà nel libro si vede che lui, cioè nel film si vede che lui sostanzialmente inseguito tenta un sorpasso, perde il controllo del mezzo e finisce giù. Quindi una specie di incidente, non di suicidio. Ora non è, essendo un film di fantascienza, non è che però nelle leggi normali, cioè, se io inseguo una persona poi questa probabilmente mi darebbero quantomeno omicidio preterintenzionale, però nel film questa cosa si salta, diventa solo una roba traumatica da cui Mae ci mette ben 3 giorni, cioè per 3 giorni torna a casa dei genitori, non parla con nessuno, si distacca. Dopo 3 giorni evidentemente si era già un po' ripigliata, si riattacca a The Circle, dove ha un sacco di amici in tutto il mondo che le stanno vicino. Decide però, colpita da questa cosa, di vendicarsi, e come si vendica? Sostanzialmente si mette d'accordo con questo personaggio misterioso che sembra un po' non nella presentazione fisica, perché l'hanno fatto un ragazzo belloccio così, però in realtà come personaggio è un po' il gobbo di Notre Dame, no? Questo che sta nelle scene, gira per i corridoi bui, gira nei meandri di The Circle. Sostanzialmente ci si mettono d'accordo per fregare gli altri due soci, e come? E sostanzialmente dicendo che il problema dei social si sa qual è che sono tutti trasparenti ma non i fondatori dei social, e quindi lei ha quest'idea di dire ok, siccome diversi politici, perché poi qua c'è anche un'altra cosa che ho saltato, che è un'altra perla di cinematografia, non si capisce un cazzo da come la presentano. Comunque a un certo punto Mae c'ha quest'idea geniale e dice: ma se tanto tutti c'hanno The Circle, perché non usiamo anche The Circle per votare? Così risolviamo un problema dell'America, che la gente non è registrata per il voto, noi quindi non vota. Ma se noi ti diciamo vota con The Circle e tanto già ce l'hai, e in una botta sola abbiamo fatto e facciamo la democrazia, così, col social network. Cioè sembra il film dei 5 Stelle questo proprio, cioè sembra proprio cioè l'interpretazione ingenua e rincoglionita del mondo dei 5 Stelle. E vabbè. E fatto sta, insomma, che questo, lei si mette d'accordo con questo Calden e sull'onda di questa trasparenza che aveva investito appunto anche dei politici, dicevano no, allora noi contro la corruzione, queste cose qua, noi da un po' saremo politici trasparenti, cioè tutte le nostre mail, la nostra vita, noi siamo completamente esposti al giudizio dei cittadini, in ogni momento della nostra esistenza vi facciamo vedere tutto. E questa cosa appunto la Mine in un discorso finale, davanti diciamo, alla folla di entusiasti del venerdì che aspettava il discorso del padre fondatore, e lui si gioca appunto la carta del rientro della pecorella smarrita che ha vissuto un trauma, e praticamente dice, ecco, mettendosi d'accordo con Calden, d'ora in poi anche i fondatori di The Circle saranno completamente trasparenti, in particolare i due soci cattivi, di quell'altro non se ne parla, ma tanto lui c'ha il gobbo di Notre Dame, non è che insomma non ha niente di interessante da far vedere. E quindi il film, a un certo punto, quasi alla fine, prende questa svolta con questi due fondatori che tentano anche con un trucco di quelli geniali di spegnere le luci della sala in modo che non si vedano tutte le loro mail, i loro dati buttati sullo schermo. E sostanzialmente il film si conclude in una maniera non troppo chiara, perché c'è questa me che fa dire no, perché noi rifaremo The Circle, lo rifonderemo perché non è nato per quello, e esce da questa porta che appunto dà su un futuro luminoso, e poi non si capisce bene perché a un certo punto la si vede lei su un kayak con dei droni che le si avvicinano, e poi a tante altre immagini di schermi di riprese mentre delle telecamere di altre parti del mondo dove succedono cose, no? C'è uno scenario di guerra, ci sono folle, non si capisce bene. Quindi il finale è aperto sostanzialmente all'interpretazione, non si capisce se ormai è troppo tardi per l'umanità e quindi anche lei sola in kayak viene raggiunta dai droni, oppure se il mondo che lei sognava era proprio un mondo dove i droni sono buoni e l'aiutano, non lo so, a andare in kayak, non credo, comunque non si capisce assolutamente niente di questa roba, più che altro che le idee che vengono espresse sono veramente la banalità, neanche del male, perché non c'è proprio la banalità della banalità, e quindi nulla, penso che a detta anche un po' di tutti faccia schifo, cioè guardando anche le recensioni internet non si becca mai più di una o due stellette, addirittura mi sembra Wikipedia riporta la notizia che nei Razzie Award 2017 il film riceve la candidatura per la peggior attrice per Emma Watson, che quindi ha fatto veramente schifo nel film, ma d'altra parte la trama non l'aiutava, e d'altra parte pure l'autore che da solo si è ridotto la trama in questa maniera, evidentemente qualche problema ce lo doveva avere. Quindi ecco, se volete vedere un film sostanzialmente di merda sui social network, potete bellamente gustarvi codesto schifo, e buona fortuna, perché non ma magari l'avete già visto, perché appunto io sono un po' in ritardo sui tempi, essendo uscito nel 2017, evidentemente già tutti l'avete visto, ne avete parlato male, e se non l'avete visto nelle eventualità, non lo so, cioè se volete farvi del male o farvi quattro risate come per vedere un film di serie B pessimo, potete guardarlo, consapevoli che avete il diritto di smettere quando vi pare. On the block, got us in a box, solitary confinement, how violent are these cops, they need an early retirement, how many rallies will I watch, I ain't got it in me to march, I gotta send me the spark. The game's in the drought, public housing projects cooking up in the Pyrex, my set, my click. Either getting money or running from homicide trial. That's if they ain't died yet. Trying to be rich, still I'm pledging allegiance. A predicate felon, a ghetto leader, lending my poetical genius to whoever may need it. I bleed this from Queensbridge, now living with my feet up, never defeated. So a president's needed. You know these colored folks and Negroes hate to see one of their own succeeding. America surprised us, a little black man got us. Though it seems I've been sick, we ain't ready to have a black president. Though it seems I've been sick, we ain't ready to have a black president. Yes, we can change the world. Change the world, they say. Though it seems I've been sick, we ain't ready to have a black president. Though it seems I've been sick, we ain't ready to have a black president. The black press thinking on election night. Is it how can I protect my life, protect my wife, protect my rights? Every other president was nothing less than white, except Thomas Jefferson and mixed Indian blood and Calvin Coolidge. KKK is like, what the fuck? Loading their guns up, loading up my suit. Ready to ride, cause I'm riding with my crew. He dies, we die too. Yeah, but on the positive side, I think Obama provides hope and challenges minds of all races and colors to erase the hate and try to love one another. So many political snakes, we in need of a break. I'm thinking I could trust this brother, but will he keep it way real? Every innocent nigga in jail gets out on the pill. When he wins, will he really care still? I feel. Though it seems I've been sick, we ain't ready to have a black president. Though it seems I've been sick, we ain't ready to have a black president. Yes, we can change the world. Change the world, they say. Though it seems I've been sick, we ain't ready to have a black president. You ain't right, Jeremiah, wrong pastor in love with a slave master. Silly yours, USA, most brave rapper. Jesse Carjacker, Uncle Tom kidnapper. Ask around Bentley Coop off the Richter. Bitch called life, I pimped her. What? Politics, politics, clan shooter. Digging for defense, progress producer. Nothing on the stove, a survival booster. Gotta do what we gotta do. We ain't got no governors coming through to help. Anything we need done, we gotta do for self. New improved JFK on the way, it ain't the 60s again. Niggas ain't hippies again. We ain't falling for the same trap. Standing on the balconies where they shot the king at. McCain got apologies. Ain't nobody hearing that. People need honesty. Though it seems I've been sick, we ain't ready to have a black president. Though it seems I've been sick, we ain't ready to have a black president. Yes, we can change the world. Change the world, they say. Though it seems I've been sick, we ain't ready to have a black president. It is my distinct honor and privilege to introduce to you the next president of the United States, Barack Obama. Sono sempre stato convinto che gli esseri umani debbano migliorarsi. Qui a The Circle possiamo esprimere tutto il nostro potenziale. Usando al massimo le nostre capacità, non esistono problemi che non riusciamo a risolvere. Le possibilità sono infinite. La sua transazione era di 78,13 e il suo conto era di 78,31. Grazie. Ti hanno assunto a The Circle! Ciao. Ciao, May, come stai? Jared sarà il tuo tutor. Quando ho iniziato ci ho messo settimane per capire, credimi, vai alla grande. May è con noi solo da pochi mesi. Ma ha fatto subito grandi cose. Allora, May, pensi che il tuo comportamento sia cambiato sapendo di essere osservata? Abbiamo sempre amato viaggiare, abbiamo visto un sacco di cose e ora la nostra realtà è filtrata da tutto questo. Ciò che è registrato viene conservato e analizzato qui. Possono usarlo come meglio credono, hanno in mano la nostra vita. Non immagini di cosa sono capaci queste persone. Perché conoscere è un bene. Fermatela! Ma sapere tutto è meglio. Allora, May, c'è qualcosa che ci vuoi dire? Che sciccheria, proprio vi ho fatto sentire anche un bellissimo trailer, sempre del medesimo film, dopo un altro, invece un veramente bellissimo pezzo, che si intitolava Black President Lyrics, e niente, basta parlare di questa cosa. Scusate il revival del 2017, ma io appunto io non l'avevo visto, non sapevo che avessero partorito uno schifo del genere. Ci tenevo tantissimo a parlarne con qualcuno per togliermi questo peso, sostanzialmente per condividerlo, perché appunto condividere è importante, come si dice nel film, anzi è obbligatorio. E vabbè, ora torniamo a parlare delle solite cose. Parliamo di una cosa interessantissima. No, non è vero, è una storia banale e noiosa, però fa vedere come molto spesso sono le cose banali quelle che funzionano di più in termini appunto di collezione di dati. Google ha rimosso 500 estensioni di Chrome dal proprio web store perché sostanzialmente erano birichine, ed esse ti collegavano sostanzialmente con dei veri e propri circuiti di tipo command and control, che sostanzialmente permettevano di mandare comandi sulla tua macchina, eseguirli nel contesto del browser, ma schifo non faceva, tanto più che queste app, che erano appunto solo mascherate dal nome e che facevano veramente alcune cose di quelle che dicevano, spesso richiedevano accessi esagerati, permessi esagerati rispetto a quello che poi effettivamente loro avevano bisogno di eseguire. Un classico era che comunque tutte quante chiedevano l'accesso alla clipboard, quindi se voi, che ne so, per qualche motivo vi tenete un comodissimo file con tutte le password e non usate un applicativo apposito, ma vi lo tenete semplicemente lì e poi le copie incollate dal vostro editor di testo preferito, e si passano attraverso la clipboard. Essa clipboard, appunto, se poi viene acceduta dall'applicativo sul quale siete attualmente, che state attualmente utilizzando. Ed è un problema, una roba non troppo bella, soprattutto se questo poi è collegato con un sito che quelle cose se le fa spedire al volo. E un'altra cosa che facevano era chiedere ad esempio l'accesso ai cookie salvati nel browser, che uno dice vabbè, ma questo lo fanno tutti. Sì, però se io posso accedere a tutti i cookie, non è come accedere solo a quelli del dominio, e questo è un'altra cosa. Però insomma, tendenzialmente erano un trucco banalissimo, cioè è una roba evidente che è banale, però nell'estremo proliferare di queste app su cui, come ci insegna questo modello di economia delle app, cioè che sono le cose che salveranno il mondo, perché serve un'app per fare qualsiasi cosa, ma comunque per sostenere questo tipo di economia ne servono almeno, che ne so, 200 o 300 mila, che più o meno fanno la stessa identica roba, ma ognuno porta acqua al suo mulino, e quindi è abbastanza probabile che qualcosa sfugga all'attento controllo di Google. E quindi niente, qualcosa è sfuggito, ma poi se ne sono accorti e hanno ritirato queste 500 app. E tant'è. E la notizia è in linea, diciamo, con l'apertura della puntata. Appunto si parlava di dati, cose, eccetera, e questo è un altro modo di fregarvi i dati. Insomma, vedete voi se è il caso di installare tutte queste utilissime estensioni di Chrome. Non lo so, io ne uso poche di estensioni, e quella che è più utile è quella che toglie gli ads sostanzialmente, e poi poche altre in verità. Non sono un cultore di questa vita da browser, proprio perché ho proprio dei problemi anche a usarlo. Tutto è troppi colori, meglio se si riesce un pacato accesso testuale al web, che è più grigio ma ma più della sicurezza mi interessa il giusto, è che proprio ce ne sono pochi colori, molto testo, poche immagini. E io più o meno il web me lo vedo così, cioè il mondo lo vedo a colori, ma il web lo vedo in bianco e nero, e questo è quanto. Ora magari vi lascio un altro pezzettino mentre mi invento qualcos'altro da raccontare, sempre che la musica voglia partire, si vuole, e allora la faccio partire, se lo desidera, che cosa devo fare? Is across the street. What's on the other side, right across the street? Double cross, double cross. Homie had a cross on his necklace. Thought I could trust him. Cross examination. I take back that last statement. Boiling point. I could feel the lack of patience. Planets in habitation. Panic and passive hatred. Go off the top in a battle, get decapitated. They don't hurt you on accident. It's all premeditated. They had it all planned out. I wanna fly away, but I can feel gravity and the depravity of my humanity. I feel trapped in a bubble or a square. Then I complain like the struggle ain't fair. It ain't fair. Cities destroyed by tsunamis. Different forms of despair, like my issues don't compare. You're feeling like grill. My life was getting hard. It's still raining cats and dogs on the boulevard of broken dreams, chasing after light beams, staying close to my shadow. Keep your enemies close, raising my daughter in a broken home. Broken home. And when she's not with me, I'm just home alone. Might get a few calls on my mobile phone, but I keep it on silent when I'm in the zone. I zone out when the beat come in. Speak life over death, that's why I can't sleep. Cousin, face problems like a man, can't keep running. Blood, sweat, and tears, you really wanna bleed from it. This is my job, I keep my shirt tucked in, but I never punch out sometimes. I punch in. I feel the weight of this fallen world, I know you feel it too. The Lord is my refuge, redemption, and rescue. You're feeling like grill. You're feeling like grill. You're feeling like grill. Rieccoci tornati dal pezzo. E come chiusura di questa puntata, che è stata un po' più breve, però sono anche da solo, non è che si può pretendere troppo, ecco, ero ormai abituato a avere degli amichetti e delle amichette che mi aiutassero, ma più nessuno sta venendo, ecco, e quindi io sono rimasto da solo. E vi annuncio che il 4 e il 5 aprile a Torino, presso il CSA Gabrio, l'E-Club di quei luoghi, l'Underscore, organizza a crocchio, scritto in una maniera stramba, e lancia con questo testo che ora io vi vado a leggere, sperando non ci ho capito niente, ma neanche loro sostengono il testo di non aver capito nulla di ciò che hanno scritto, una a due giorni di smanettamenti a crocchi, workshop, seminari, riappropriazione dei saperi, hacking e cattivi odori. Speriamo di no, io mi porto il deodorante. Costruire comunità resistenti complici nelle lotte. Saldare relazioni di fiducia tra le moltitudini sommerse nell'estrattivismo cognitivo. Riuscire ad immaginare e a costruire tecnologie conviviali che sostituiscano le megamacchine digitali. Non promettiamo la rivoluzione, ma il crepuscolo degli dèi. Per farlo inietteremo lo shell code nel paese reale, andando nelle case ma soprattutto nei cuori di chi ancora ci crede, a decifrare le blockchain corrotte di un sistema che nulla ha più di umano se non la scalabilità del vostro frigorifero nel cloud, insomma in una parola quantum machine learning. Faccina. Se non hai capito molto, neanche noi, ma appena ne sapremo di più vi faremo sapere. Nel frattempo segnatevi le date sull'agenda, organizzate le vostre carovane, preparate i vostri migliori tricks e mandateci i vostri contributi. Tant'è. E quindi, anche se non si è capito ancora niente, il 4-5 aprile, tendenzialmente penso che l'Eclab di Firenze sarà in quei luoghi, forse se... se riusciamo a organizzarci porteremo anche qualche contributo di cui magari vi racconteremo le prossime volte. Sicuramente in una delle prossime volte approfondiremo, manca ancora abbastanza tempo, manca un mese e mezzo circa, riapprofondiremo questa data, magari con qualche ci lanceremo in una roba mai fatta in questa trasmissione, che è tipo una telefonata in diretta con qualcuno dell'underscore. Sarebbe una roba di alta tecnologia per il livello della mia trasmissione, normalmente appunto fermo al bla bla bla, sostanzialmente o al bla bla bla o allo schermo con i caratteri verdi o qualche altro colore, comunque appunto pochi, perché il web pochi colori. E niente, con questo vi saluto, vi do la buona notte e vi do appuntamento per lunedì prossimo. Prometto che lunedì prossimo la puntata sarà molto più lunga, ma anche molto più partecipata e con argomenti credo molto più interessanti di quelli di oggi. Su quest'ultimo punto forse sto mentendo. Follow me now, listen. Say hi, Dick, yes, you're rolling hip hop. Say J Roll, yes, you're rolling hip hop. Redefinition, say you're rolling hip hop. Say Black Soul, come to rockin' that. From the first to the last of it, delivery is passionate, the whole and not the half of it, forecasting aftermath of it, projectile and I'm blast away, accurate assassin shit, me and Quali close like Bethlehem and Nazareth, after this you be pressing rewind on top your master this, shining like an asterisk for all those that you gather, connecting like a rent house from the townhouse to the tenements, cause all my Brooklyn residents, all the heavy regiments, don't believe, hear the evidence, we're Brooklyn. See that? Buy the ticket, all can't believe that. From where they send the tree at to where the police react. Tell them quality, equality, you tell them what we be at. Brooklyn, New York City, where they paint murals of Biggie and cash we trust. Cause it's get a fabulous life, look pretty, what a pity. Blunts are still 50.